è capitato qualche problema, e mica ci ho piatto io, si apriva in cura a un certo punto. Allora, mi sono comprato quello di Marco, 500 euro, quindi figurati tu, chi se ne fotte, a me, a un certo punto, vabbè, la verità mi piaceva, perché mi piaceva, cioè, l'alimentatore 15 ampere, bello, più l'apparato 300 euro tutti e due, andava che bene, non la fare a un certo punto, ma quindi sì, a un certo punto è arrivato questo qui e cosa ha fatto? Si è comprato quello che voleva vendermi la casa, dato 100 più, io ci ho rimesso niente, ci ho rimesso con l'altro, a un certo punto, non mica ci ho rimesso io. Lui lo voleva per forza lui, quindi come si dice, si comprano le persone con i soldi, dopodiché lui è rimasto trombato. Adesso lo siete più a baracchino, prima entrava a baracchino, era milionario, non so che cosa, incassava 15.000 euro al mese, eccetera eccetera, non senti più, io non sento più la verità, quindi io sono a posto, i problemi sono di colorato, sono i miei, sono di quello di Signore, non i miei. C'è un paese dove siamo, che si è fatto monta. Io gli ho conosciuto la storia, Antonio, hai ragione Antonio, io la conosco molto bene la storia, è un coglione veramente, ci ha messo in mezzo alle balle, facciamoci vedere qui, facciamoci vedere là, con i soldi qui, i soldi là, poverata, pellegrino, che buffone. Ha ragione Antonello, non è così come te, c'è un tu, lui è andato di nascosto, capito? È andato di nascosto, ha offerto di più di quello che Antonello aveva già pattuito, capito? Perché è un grandissimo farabutto, una persona che vale meno di zero. No, vabbè, non è che voglio mettere in dubbio quello che dice Antonello, per carità, già sapevo questa, un pochettino questa storia, stavo scherzando un po'. Però una persona del genere, cioè, nel mio, cioè magari Antonio magari si è fatto anche il culo, cioè, a fargli qualcosa, quella, cioè, magari a togliere l'antenne, cosa. Cioè, se l'avrebbe fatta a me, l'avrebbe fatta a me una cosa del genere, soldi non soldi, gli avrei tirato questa sussa che manco quattro accusava, perché no, non sopporto i soprusi. Cioè, ma proprio mancantesimo, cioè, mi ha dato un mancantesimo a me. Per una cosa del genere, per una cosa del genere, cazzo te ne taglio le gambe. E poco ci tengo all'onore delle cose. No, puoi manco toccare, Antonio, un invalido civile, ma voglio dire, se ne carreggiano subito. Cosa feci Antonio? Non gli avrebbe dato un colpo di bastone in testa. Non lo puoi toccare, è un matto di Gardena, un invalido, truffaldino, cazzo. Lascia perdere, riesci a fregare il cugino della moglie, fate il conto tu, senza fare noi, capito? È un truffaldino, una faccia si è comprata veramente male, ma non solo con Antonello, con tutti, con un bel gente, con un bel CB, con me ha avuto poco a che fare perché l'ho mollato subito, mi ha chiesto se avevo un accordatore, gliel'ho venduto, ho mollato i soldi, ciao, arrivederci, buon viaggio, e poi fuori alle balle. Ma con altra gente ha fatto un sacco di casino, tu lascia perdere. Non anche Antonio, dai, poi un altro passaggio, io mi saluto e vado a guardarmi la TV. Buonasera. Tonino. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Claudio, ciao Pontozzi e ciao Antonio, ben sentiti. Non so di che cosa state parlando, di questo di che ha fatto. Guarda, non mi interessa, io manco lo conosco, figurati. E qua finisco il discorso, a me la fatti onda, però io so di chi sta parlando Antonello, so che è una persona veramente cattiva, una persona che si è comportata molto male. Capito? Non è di qua, Ottonino, non è di qua, non è di Sassari, quindi. Va bene, dai, io vi saluto, buonanotte a tutti, noi ce l'abbiamo già fatta la buonanotte, Ottonino, quindi siamo già salutati. Ciao Antonio, ciao Pomponio e ciao anche a Marco che ne ascolta, dai. aggiornato, 18 gennaio sono a Ravenna, ricoverato. Bene, bene, bene. Un attimo, sono pronto. Eia, mamma come ragavo d'undo tu, chi è mia, se non mi alluci. Bene, approfitto sul microfono. Ciao Cla, buonanotte sotto Corea, alle prossime, avanti Antonio. Eia, ciao Cla, ci siamo domani, là, non c'è problema. Speriamo che vada bene Cla, se c'è Cla. Se devo fare qualche cosa non c'è problema. Ti auguri da parte mia, se devo qualcosa, discorso è quello. Avanti gli altri, va. Appa, ciao Cla, ce la risentiamo alle prossimine, ciao ciao. Ciao ragazzi, grazie a tutti, buonanotte, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. E allora? Ciao Pedivella. Ciao BCK. Pedivella BCK, bubu. Ciao Roda Guarda. Torino Pedivella. Ascolta, Roda Guarda. Oi oi oi, ma cavolo, un po' passa a casa e ti do una cosa, così di fare lo scherzetto a quello là, vieni a casa, ti do una cosa bella bella, vediamo poi se te li dai su, vieni. A me su non mi cade, a me non mi cade niente di soldi, la verità. Il bello sai cos'è? Che lui ha fatto in pratica a rialzo, dice Antonio ti va per dire 500 euro in contanti, io ti do 700, ha preso lui e ha dato la roba a lui, il discorso è quello, hai capito? A un certo punto ha diventato non è più l'apparato HF, che poi l'apparato HF io ho guardato Vittorio dice l'ha messo a posto, mi ha telefonato il certo lei dice l'apparato HF c'è a posto, dice voglio dice 50 euro, va bene, dico va bene, fa una cosa, gli ho detto, siccome mi ha chiamato uno stronzo, gli ho detto a un certo punto, ho detto allora lui, fate con lui, e infatti è andato a lui a un certo punto. Tutto lì, che poi non è che, vabbè, faceva il poco, quindi è venuto da me, sotto casa mia, la verità, con fatto 5CB, cosa del genere, quello che è, con 15 euro in mano, nel borsello, hai capito, il discorso è quello, ha fatto il poco, il certo dice, se lascia perdere, dice, con l'apparato, dice, guarda, gli do 500 euro in più, 1000 euro in più, l'altro che me lo prendo io, ascolto, prima di tutto me lo prendo io, è roba mia, che ho fatto io, l'affare, mica è tuo. Perché ha preso cosa ha fatto lui, con il signore cazzo, che era intermediario, con il genere, se ne sono d'accordo, e gli ha dato in pratica 500 euro in più, tutto lì. Ce l'hai messo lui, mica ce l'ho messo io. A fare solo sono. Anche perché l'apparato dopo 3-4 mesi ha difettato e si è arrabbiata in culo a un certo punto, capito? Guarda, un aglino, bobo. Quelle sono le persone più furbe. E quello di senno lì. Allora, adesso non mi ricordo un attimo la verità. Ci mi disse lui, si è presentato lui, eccetera, eccetera, lui c'aveva l'azienda, che non c'è, i familiari, non so quanto guadagnava al mese, eccetera, eccetera, lui e i figli e cosa c'è. Tutte balle. Solamente è venuto cazzo con un masso più cazzo da pieno, ti giuro qua, da 50 a 100 euro. Non so se abbia svaggiato qualche banca, quello che è, ma comunque sia, ha fatto così. Quindi a un certo punto ho detto, ma fa quello che cazzo ti pare ti piace, a me non è sbattere niente. Dopodiché, dopo un mese, mezzo e mezzo, la verità, ti giuro, Luca, ho comprato l'apparato di cosa? Di Marco. Mi manco conto, quindi tu già lo sai più di me. E tu pigliate il culo, tu quella parecchio là, io ho detto l'HF. E mi sono pigliato la parecchio di manco conto. Poi ho saputo che ho portato dopo un po' di tempo, eccetera, eccetera, che in pratica ha rubato un apparato HF 140 che prima era mio, poi è stato dato un'altra persona, poi quella persona l'ha dato a lui, eccetera, eccetera, in prezzo di cosa del genere, se l'ha venduto e tutto un giro, no? Ma non ti voglio dire niente la verità, perché sarebbe cazzo la vedetta la prendono e mettono con la motosega, guarda, e fa la stessa cosa che aveva fatto a quei tipi, cosa ti posso dire, da 131, quindi ce lo butti cazzo in quattro cose a un certo punto, ma a culo in quattro valigie, perché non è possibile andare a cosa valigia, guarda lui. Sono trattato come quello lì, non l'ho mai conosciuto in vita mia, la verità. Ma però dico la prima, guarda, ma non ho soldi, io sono i miei, eccetera, eccetera, ho bruciato questa comunicazione. Ma però dire così, no, basta, e tutto sarebbe finito. Bobo, mi puoi un altro? Campo, cosa posso dirti? Che un delinquente, chissà che va piento o varaccio. E fino ai conti chi è? Ma sto dicendo, è un ragazzino, è giovane. Appunto, se no, penso, forse 25 anni, una cosa leggera, la verità, una cosa leggera, 25-30 anni. Allora forse quello mi stava attaccando una volta, non so, boh, è convinto questo qua. Ma scusa un attimino, ma... qual è il problema che hai? Era venuto uno strapotente, no? Ho detto, ma se vuoi vieni, io sono a Sassari. E poi so che era un molto amico di Stefano, se è lui, Il cugino era di Stefano, poi ha preso, è fatto a cugino, l'ha bruciato, gli ha preso il 140 e non gli ha preso più tutto, se l'ha venduto. Cioè, te lo ricordi, sì. Ma già lì, se vuoi farlone, io ho una trentina d'anni, ho 28-30 anni, fa un farlone se mi zingo, va. Per quello che sto dicendo, non per altro. A me mi ha fottito, ma Stefano purtroppo, allora quella parola lì, di Stefano è passato da lui, è passato a, come si dice, a quei cibi di Ussi, per quei cibi di Ussi l'ha dato in vendita, in pratica, un'altra persona, quindi ha fatto tutto un giro strano, ha fatto, capito? Che poi era, prima era il mio, la verità, il 140, quindi figurati tu. Io, il 140 io l'ho dato a Stefano, Stefano l'ha dato a questo qui, e se questo qui l'ha dato l'altro. E poi io l'ho riconosciuto, e purtroppo non ho saputo fare niente. Già ho capito chi è, va. E sta facendo un trafortente con me. Stava mettendo un po' nei casini con Stefano. Ho lasciato perdere, mi sa che mi sono a culo. Comunque, a me mi sta venendo sonno, e io vi saluto e mi giro dall'altra parte e faccio l'andata che domani si lavora. Ciao a tutti, buon proseguo e buon ci rivela. Ciao ciao. Ciao Tony, buona serata, buona notte e buon tutto. Tony, alla prossima. Io la mia telefonata l'ho già fatta. Ci ho sistemato un computer e domani mi caccio di là. Adesso ho altri due lavori da fare. Già mi sta facendo le giornatine mie. Avanti anche tu. Ciao Tony, Tony, ce la risentiamo alle prossimine. Ciao ciao. Oh, già la mia ho un lavoro fisso. Mi metto lo stipendio fisso. Assicurato e tutto, purtroppo non c'è, vabbè, pazienza. Ce la andiamo così. Tu cosa hai dicendo? La santa arrancia a te. Un poco poco ho sentito Atanasi. Ma tu, trovo la pennina, va, veramente carina, bella, bella, bella. Piccolina, piccolina, 2 terabyte, allucinante. Adesso sta fatto pagare a tirarmela. Io me la riordino, mi serve. Così la tengo una. Ma praticamente sono. Un po' la pennina lì. Tu prendi 4 computer, da 500 giga, 4 computer messi assieme. È buono, è buono. Ma sono tutti divisi quei programmi di musica, sì. C'è le cartelle divise, così è. Beh, per forza. C'è le cartelle, c'è la musica vecchia, karaoke, musica, c'è le controlla, tu mi sono messa anche sassarese. Andava. C'è un trapotto bagaglio. Sai che è un tipo, un ragazzo che andavo sempre a fare karaoke, quando faceva karaoke lui, no? Alle serate. E avevo chiesto una canzone una base. Certo, 15 euro vuole fa. Ah, ti ammazzi. Davvero? Ehi, allora? Ma a scaricartela tu? No. No, scaricarmela io. Cioè, va lui, sa che ce l'ha comprata, l'ha pagata, ma non la vende 15 euro. Allucinante, eh. Ma sai, ti passo, no, beh, adesso non domani, me lo devo ricordare, la pennina che ho, ti passo tutte le basi che sono già pronte quelle, tu le apri e ci canti sopra, praticamente sono come quelle che trovi su YouTube, mi capito? Tu cosa adesso cerchi una base, faccio un esempio, Gianni Morandi, no? Te la apri su YouTube, c'è anche cosa per leggere, e allora c'è tutte le pennine, questa pennina qua, ce ne sono tante. Sai che ti metto tutta la cartella? Buone, buone, buone, che mi interessa quello a me. Tu lo sai che ando a questo computer, mi salvo tutto. Vabbè, chiedo, se poi non ho problemi. Lo chiedo al proprietario, sì, prendi quello che vuoi. Tanto va salvato, una volta che lo salvo nel mio hard disk. Come si dice? E poi la volta che è lì e rimangono lì. Certo, poi gliele ripasso nel computer tutte le basi, tutte le cose sue, le foto. Io mettiamo tutte le basi, tutta la musica che c'è, e poi le foto le cancello. Ah, ma buono, buono lui. Che volo cosa fa con il gatto sopra? E poi a Natale, cazzo, non si può uscire, non si può fare nulla. E fermo un po' di show, così. Mi porto una cantata. Poi pure un po' in vita. È un casino, capo, bisogna stare attenti che non si può uscire. Dimmi tutto, dimmi. Dove mi inviti, dimmi. Non vi avrei invitato volentieri. Vabbè. Di là, guarda, lascia perdere che mente. Ho abitato in quelle zone, quindi a un certo punto è un casino. Lo sai, arriva una soffiata e ci rimetti il cazzo, le appende e ci rimetti. Lo so, lo so. Ehi, finché canto io e Sara non c'è problema, se ne ha voglia. Vabbè, quello che è. Comunque sia, purtroppo è così. Adesso questa storia del lockdown, bisogna stare molto attenti. Io abito all'ultimo piano, Giovanna abita al primo, quindi io posso scendere tranquillamente. Non è quello il problema. Il problema sai cos'è? Se dovesse esserci magari qualcuno che rompe i coglioni e comincia a contare le persone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 6, figlia, cazzo di cane, carabinieri, cazzo, sei, faccio la fine del coglione, cazzo, a un certo punto. E cosa, più vicini di casa, quindi a un certo punto stare molto attenti adesso. Specialmente vicini di casa, sembrano così, luci, luci, luci, ma purtroppo è così. Bisogna stare molto, molto, molto attenti. Ah, il problema è che, cioè come si dice, il problema è che cioè, in quei giorni di festa vogliono chiudere, cioè se lo fai per esempio domani non c'è nessun problema. Per esempio, lo fai domenica, questa domenica, dall'altra settimana buoni donati delle palle rossa, buoni. Tanto sei stato strano, sei, la verità, sei basso di radio. Stai pompando? No, perché mi sono spostato dal microfono, adesso bene si sente. No, ti sento strano, basso di radio, la verità, come se fossi usando uno di quegli apparati omologati per dire da l'ho comprato io la verità. Non sei di radio bella, chiara, forte, eccetera, eccetera. Lo so, Ali, lo so. Lo so, lo so. Quando sto arrivando perché? Il segnale è 9:20, la verità, ma l'aria non è bella, capito? Così voglio dire, uscire bello tranquillo quando come si deve una volta che facevi le gare per dire mi sono ammodulato quello che è. Ma adesso sei proprio boh. come ti posso dire, ha abbassato proprio di modulazione. Non so cosa ti è successo, la verità, perché no, non lo so. Così va meglio? Così sì. Ma il segnale è più basso, vero? No, va bene lo stesso, è uguale. Lo so. Kappa, vuol dire sono 4 watt, sono. Vabbè, meglio dire, cosa vuol dire 4 watt? Io non è che vado a fare le gare, già lo sai anche tu, quindi 4 watt, 5 watt, 15 watt, 20 watt, quelle che sono. L'importante è che esci bene, il discorso è quello. Col compressore stai innescando? No, assolutamente no. Lo sta facendo? No, qua no. Sì, qua si fa. Guarda. Appena, sì, c'ha ragione anche cosa. C'ha ragione lui. La modulazione aumenta o è sempre la stessa? Prova senza parlare naturalmente. 1, 2, 3, prova. C'è lo stesso, quello è ma è basso. La modulazione è 5, la verità. Così va meglio, dai, non vedo da lì va. Non c'è niente da fare, boh, chissà che cavolo ce l'hanno messo. Così va bene. Lei buttuchi sul compressore, ma non compresse già nulla. Così va bene. Luca, per te va bene, sì. La voglia. Appa. Invece quando vado a schiacciare questo, mi toglie un pochettino di modulazione, no? Sì. Vabbè, lo spugniamo tanto. Non c'è bisogno di spingere. Ah, pompando stavi, cazzo. Pompando stavo. Pompando. La cosa bella che c'è questo apparecchio è che quando parlo, sento solo te ma il QRM no. Meglio così, è ora. Tanto non c'è bisogno di scappo un pente, lasciamo così, lo lasciamo. Avanti Luca, e poi di tu. Ma più bello sta. No, quando la verità? Da te non lo so. Noi ti dà più vino, è giorno da piovere, no, assolutamente. Coglioni. Mamma mia. Uia. Già funzionava. Hai visto, sei stanco e gratificato. È amplificato. Hai detto gratificato, non amplificato. Ah, cappa. E un po' scendo giù, mi faccio la doccia e mi si cocco. Da oggi no, se voluta rimanere giù salirà dopo. E io qua mi sei drummita perché era molto stanca, mi faceva male la schiena e tutte cose, allora così me li sono fatti io i piatti e allora l'ho lasciata riposare. Hai visto, a volte capita. Adesso magari la prima le pigli ti piglia a coppia e ti si manda a fanculo. Così impari. Che ne è stanca tu no. E beh, non è che si può muovere più di tanto, no. Ogni volta che si muove fa male la schiena. Anche se non è che stia molto bene la verità. E quello te lo sto dicendo, quindi a un certo punto ti posso dire, ho giocato anche troppo io, sono uscito qua in 5 minuti, ma 5 minuti secondi contatti, per bermi la birra e entrare a casa, perché non stava bene, hai capito? Mi ha detto che c'aveva il coso, non so che cosa, eccetera, eccetera, e quindi gli ho avuto la paura e va a far culo. E dove la luce lui, se avete avuto qualcosa tu, l'avevo avuto anche io, ho detto. Quindi io non c'ho niente, tu non c'hai un tubo, ho detto quindi sta tranquilla, e lei la presa male, capito? A un certo punto, tutto lì. Quella Simona c'è più problemi, Sara è diverso. Sara già deve stare attenta perché c'è il bambino, quindi o bambino o bambina che ancora non lo so cosa c'è dentro la pancia, quindi deve stare un pochettino al riguardo. Se avessi avuto qualcosa l'avrei avuta io, non lei, non so se è quello, perché io ho i miei nipoti, c'è mia sorella, c'è mio fratello, quindi a un certo punto se avessi avuto quello che stanno dicendo adesso, non sei uscito di casa, sta tranquillo, questo è poco ma sicuro. Vi vedo voi la febbre, dopodiché la freddore, la tosse, eccetera, eccetera. Avevo avuto i sintomi, sarei stato in quarantena minimo, non minimo di 20 giorni. E siccome non c'ho niente, perché la verità non c'ho niente, quindi sono a posto. Posso considerare fortunato per il momento ancora. Potresti essere asintomatico. Tranquillo, neanche Simona è. Cioè, c'ho quei sintomi, non ti preoccupare. Ma cosa, secondo me sono tutti quanti i capi, diciamo. Che sto facendo io? Simona, grazie a Dio, è a posto. Controllato stamattina, è a posto. Anche mia nipote è diventata a posto, figurati tu. Chi è il numero, c'è? Scappa, no, tranquillo. Con le patologie, i problemi che c'ha, sarebbe stata assolutamente, Antonio. Capo, ti sei beccata a chirruda nel letto. Ho capito, dimmi. Con i problemi che c'ha, sarebbe stata, non si sarebbe manco mossa, fidati. Appunto per quello, ma siccome in quel sintomo non ce li ha, quindi a un certo punto, cazzo, è venuta adesso, ma cosa dicendo? Io c'ho quello, c'ho quell'altro, no, detto, non è assolutamente vero, io ho detto, stavo solamente parlando dei tuoi sintomi, io ho detto, subito lì in casa, hai capito? Mamma mia! Quindi figurati tu, cosa passo io per questa coglionata che gli ho detto la dottoressa, figurati tu, cazzo. Immagini, se la dottoressa dice, guarda, dice la dottoressa, io ho questo sintomo, sento questa storia qua, sento odore di paccioccio, cazzo. Che devo fare? Ah, quelli sono i primi sintomi. Signor Antonello, non si preoccupi qua, come dice a notte, allora facciamo così, scopro più che altro, ogni giorno siamo a posto, dico, a un certo punto, almeno sono tranquillo, e che cazzo. Ma senti, cosa senti che ho detto questi? Cazzo, una roba da macchina. Ti giuro, guarda, non ho detto quello, ma ti posso dire che gli ho detto solamente che lei in pratica sente, quando sente odore di coso, di caminetto, che capito lo sai, che ce l'hanno qui di fronte a me, in pratica, poi andiamo avanti, a parte delle pizzerie, cosa del genere, a un certo punto, sai cosa gli ha detto la dottoressa? E lei c'ha in pratica l'inizio del Covid-19, il discorso è quello. Tutto lì. Adesso io, fatto l'ho detto scherzando, ma a un certo punto, secondo che trovi, la piglia davvero, e la piglia male, e si muove la pigliata male, la verità, una cosa del genere. Quindi la sto sopportando io da una settimana e mezzo, per queste condizioni, ma non, hai capito? E convincerla, e la carità, guarda, tutto lì. Io piace a vivere, però c'è da piangere, perché un'autoressa che ti dice una cosa del genere, a un certo punto, per carità, guarda, no, non esiste. Per carità, lasciamo perdere, ma che tu vuoi faccio? Non su ricetta, guarda, se a me devo dire qualcosa, ecco, no, qua io gli faccio quella prassi, gli faccio, quella che avevo fatto poco fa, a un certo punto. Fare una prassi da genere. Dicendo e davvero non si ascoltava la verità, è la verità, purtroppo è la verità, cioè cosa ti dice cazzo che tu è una questione di naso che senti che qua è pieno la verità di camionetti che usano la legna e cose del genere. E ora ti dice che tu c'hai il sintomo di cazzo, i primi sintomi di cazzo del cuore, a un certo punto è la pelle e sbattere la terra per non è possibile a un certo punto, a dire quando la trangia, cosa è quella? Non può essere. E quindi io sono rimasto adibito la verità, a parte adibito, ma ho passato una settimana di incubi, sai cosa vuol dire incubi, cazzo? Che lei pensa che sia tutto quello che gli ha detto la dottoressa sia vero, ecco, e come dire una persona, tu c'hai il cancro e tu devi dire tra una settimana, un mese, quello che è. Hai capito? La stessa identica cosa è capitata, cioè uguale. Ma mi sembra che questa gente qua ti stia mangiando sopra. Guarda, non lo so, ma comunque sia così. Sembra che sia la stessa identica cosa che c'è la persona che ha il tumore, tu vabbè, c'è un mese di vita, a un certo punto cosa fa cazzo? Là è come si faceva prima, ti ricordi era l'80, che diceva c'è un tumore al cervello, pigliava, andava e si faceva un bel giro, cazzo, cosa mangiava, allora vabbè, il discorso era inverso, non c'era niente, eccetera, eccetera, andava e trombava, dopodiché metteva in città le persone e a un certo punto dice ma io non sono mica morto, cazzo, autoressa, e dice ma cazzo scusi, evidentemente guarito, ma io ho 15 figli, cosa faccio io adesso? Ah, se raggi la vita, hai capito? Per carità, gente, purtroppo capita così, non può farci niente, no? Non è che... per carità, non ti può... vabbè, quello che è, comunque sia, per me va bene, qualsiasi cosa sia... pazienza. La cosa cazzo, cioè, secondo me ci vogliono mangiare, cioè, il coronavirus ci sarà, ma secondo me si stanno prendendo anche per il culo, ci stanno prendendo, non sarà tutto chi c'è un corona, no? Prima di tutto per avere questa specie di coronavirus, come quello ho spiegato, bisogna avere dei corsi. Allora, i sintomi sono questi. Febbre alta, mal di testa, dopodiché sensazione di non riconoscere gli odori, i sapori e poi il resto, dolori intramuscolari, cosa del genere, grazie a Dio a me non mi è mai capitato, almeno a me, massimo grazie a Dio, quindi a un certo punto sono cazzate. E poi, come hai detto tu, lasciamo stare, dai. Beh, Antone, dai, io vado e mi faccio la doccia e mi zingocco perché sono a pezzi. Già, ho fatto tanto oggi. Cazzo, non aggiungo una manco di trudia. Ok, non c'è problema. Non ti odiare, tranquillo. Tu devo venire la tina verso le 8 metri e 9, no, 8 metri e 9 no, verso le 5 metri e 6, le 3 e 9, più che altro. Così tu fai la cacca, dopodiché è andato al lavoro alle 7:30. Ok. Dai, se va a farmi le 4 ore c'è questo gioco, sono appena, mamma mia. Faccio un gamba quiz e tutte le cose, ne ho fatto uno o due già. Speriamo che vada avanti così, due errori così faccio, tre, qualche volta quattro, sempre promosso il gioco. Poi quando prendo, do l'esame e via, faccio la prima fase, poi faccio le guide, do l'esame e faccio la patente. Sono contento per te, se la passi qua, sono veramente contento per verità. E vabbè, piano piano, va, aiuta. Hai fatto 20 anni che vuoi passare di lavoro, quindi a un certo punto cosa devi fare? Ti attiro la mano, non ti preoccupare quello del coso, non ti preoccupare. Sa che stai usando la parte per lavorare, non per l'altro. Se no non ti avrei mai colato, fregate. Quindi abbi pazienza, sto seguendo io. Ok, va, piano piano. E pigliatela pure tu, Antone, cavolo, tu studi. Studi, cavolo, te la pigli. Ma no, ce l'hai pure tu. No, non me ne frega niente a me. No, a parte dove frega proprio niente, la verità. Tanto Dio, sono tranquillo. Ormai sono giunto alla pensione, quindi a un certo punto. La patetta non c'era proprio niente. Se più mi prendo un quei motorini, se capita, quando sarà il momento, che c'è la pensione, cosa del genere, e sono a posto. Non c'ho né patente da esibire, né assicurazione, né niente, quindi se la piglia in culo a un certo punto. E sono tranquillo. Certo, va. Il motorino in garage, lo carico con la 220 e sono tranquillo. E chi se ne fotte? Quello che mi resta, pazienza. Fai così, la vettica. E io vabbè. Ui, dai che io vado. Dai, buonanotte a te. E buonanotte a tutti. Ciao. Ciao, buonanotte. Ok, ciao, domani, dai, ci stiamo domani mattina. Buonanotte, sta ben bene, con tutto. A domani. Ciao. Ciao. Ciao, Luce, se ne ascolto. Ciao.